Pronto? Antò? Chi è? Chi parla? David Parenzo. Oh, ciao, ciao David, come ma stai? Ma rimortaccia, bene, bene, sono qui con Giuseppe, volevamo farti un'intervistina al volo. Quando? Quando adesso, vuoi. Adesso, quando adesso. Vuoi? Adesso non si può perché sto aspettando che arrivano quelli del TG2. No, ma due secondi. Vabbè, facciamo due minuti adesso, ma quando arriva chiudi, chi se ne frega. Poi no, no, mi sto vestendo, guarda, prova a richiamare fra 10 minuti eventualmente. Antò, quando c'è l'intervista? Perché sta cosa ha visto di Tajani. Ma come sto vestito, prova a richiamare fra 10 minuti. Ma che stai nudo in casa, scusa, non ho capito. Ma hai fatto i cazzi tu, ah no, va a far culo. Io non ho Ti pare che uno stia... La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Ciao Cruciani, ascolta, io sono veramente disperato, più che disperato, sono incazzato. Tu sei io, che no, cosa, no, sei black? Io sono sei, di Milano, straniero, io sono black. Di Milano, io sì, sono un autotrasportatore. Sì, ma che sei, straniero, che sei? Ma io sono originario della Costa d'Avorio. No. Ma sono la Côte d'Ivoire. Ah, se tu veux parler français, on va parler français, mais je peux faire parler en italien. No, ma je peux parler français si tu veux, c'est pas un problème, c'est pas un problème, on peut parler français. Pas de problème, parce que je sais que tu parles bien le français, il y a pas de problème. Ouais, on peut parler des sexes, on peut parler des sexes. Io sono veramente incazzato, Curuscio. Sono incazzato e arrabbiato perché tutti a casa, tranne le possute. Oh, c'ha pure ragione questo, eh? O no? Buonasera cari amici. Nel corso della puntata leggeremo i 21 indicatori per uscire dalla zona rossa, cioè quali sono i criteri autorizzati e messi in campo dal Comitato Tecnico Scientifico per valutare il colore delle regioni. Senti, cambia canale, non rompere il cazzo, vattene a fanculo, brutto troppo. Tutto, guardate cosa c'è in giro. Vecchi di merda, vecchi di merda, rincoglionite con bambini piccoli che dovrebbero stare a casa, vecchia di merda che non stiamo aspettando da mezz'ora per non è in grado di passare e mi chiudi. Bisognerebbe che qualcuno gli denunciasi da un lanciafatti alla faccia di questa radio del decoro. Ma è possibile che queste femmine che si può fare spugnare lo culo chiamano solo alla zanzara e i bistrati nelle ingoste? Com'è possibile? In collegamento da Roma, David Parenzo! Buonasera, cari amici, buonasera. Interrompiamo il discorso del presidente Trump perché ciò che sta dicendo in larga parte è assolutamente falso e noi non possiamo consentire che vada avanti così. Vergogna! Le più importanti televisioni americane hanno interrotto il discorso del fanfarone giallo, non consentendogli di sparare cazzate. Questo ci insegna bisogna la grande democrazia far concludere i discorsi e poi criticare. Questo e poi dire che sono delle puttanate. La democrazia americana non si trasmettono l'America è paese della libertà, l'America lo ha fatto l'America ieri. Allora grande non c'è esempio. Solo questa emissione radiofonica, ragazzi, a mandare in onda i negazionisti, a contestarli naturalmente, quelli che dicono che il virus non esiste, che il nuovo ordine mondiale eccetera eccetera. Ne ho sentiti un po' anche ieri. Iniziamo dal nostro amico Bacco. Lo Stato ha sulla coscienza i 37.000 morti e passa. Senti. Voi state dicendo che le persone che sono state portate in terapia intensiva intubate e che intubare quelle persone non era la pratica. Le ha uccise. Ma invece le ha salvate. Se ancora noi continuiamo a dire che non aver fatto le autopsie è un piccolo errore e non ha determinato tutti quei morti, diciamo una bugia. Quindi lo Stato ci ha impedito di fare questo tipo di autopsie, quindi lo Stato ha sulla coscienza sicuramente questi morti. Vaccino acqua di fogna. Senti. siccome il vaccino è acqua di fogna, perché il vaccino per i virus RNA non si può fare, e questo ve lo dicono tutti i medici e ve lo dice la medicina al secondo anno di medicina, non ve lo dice questo coglione di Bacco, allora io dico, voi cosa farete? Per altri 3-4 anni terrete le mascherine? I medici hanno ucciso delle persone, senti. Visto che lei aizza i parenti delle vittime. Noi abbiamo ucciso le persone. I medici sono stati degli inconsapevoli strumenti di morte. Perché vabbè, noi abbiamo ucciso le persone con le nostre Si faccia un giro a Bergamo, vada a Nembro. Ma basta, no, stasera ne ho sentite troppe di cazzate. Vada a vedere i posti, è pieno di morti, è pieno di persone che sono morte di COVID. Se la suona. Ma me la canta e me la suono. Ma lei è stata troppo gentile e selvaggia Lucarelli con lei. Ma vada a dormire. Ma scusi, ma io devo parlare con una deficiente del genere che appena mi appella mi dice che io mi chiamo Bacco e perciò si spiegano le cose. Io non parlo con una deficiente del genere. Risponda sulle autopsie, ha già risposto. Risponda sulle autopsie. Guardi, lei può parlare risponda con lo Bacco, sulle autopsie. Lo Bacco lì ci parli. Va bene, Bacco. Voi non fate mai un contraddittorio. Io la ringrazio. Ma quale contraddittorio? Non fate mai un contraddittorio. Ma va bene, demenzialità. Ma quale contraddittorio bisogna fare? Non si muore. Ma lei o me? Però ragazzi, vi faccio ascoltare quello che dice un tizio. Però quello che dice, non lo so chi c'ha ragione, non me ne frega non niente. So, possiamo prendere non posizione. Lo so, Bacco è uno che dice delle cose diverse dagli altri, dice delle cose diverse dagli altri. E allora perché lo invitano? Per fare casino, come dovremmo smascherarlo noi, credo, certo. Allora, Bernabei, uno del comitato tecnico scientifico, che è un geriatra, una cosa di questo tipo. Senti che cosa dice? Senti una cosa molto gottardiana. I contagiati sono tra 0 e 40 anni il 32%. Ho rivisto proprio i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, gli ultimi che ci abbiamo. I contagiati tra 30 e 70 sono il 42%, rimane un 25% che sono i contagiati tra 70 in più. Bene, questo 25% fa il 90% dei morti, cioè muoiono praticamente quasi solo ed esclusivamente i vecchi. L'età media dei deceduti dalla prima settimana, da marzo fino ad oggi, l'età media supera gli 80 anni e in più c'hanno 3 malattie. Ragazzi, non è che lo dice un negazionista, lo dice un signore che si chiama Bernabei, che è nel comitato tecnico scientifico. Ma questo non vuol dire che non devi prendere i provvedimenti, ma, però. Ma io non ho detto questo. Io dico, ragazzi, tenete presente anche questo. Non è la peste bubonica, ve la stanno presentando drammaticamente ogni giorno. Come se ma cosa c'è? Ma che ne sai di come sta? Ricoverato a Firenze, lo mandano in ospedale perché si chiama Carlo Conti, o perché non si sente sicuro. Non diffondiamo notizie. No, ma mica l'ho detto. Ragazzi, ma cosa c'entra? Non più compatibili con l'isolamento a casa, le sue condizioni di salute. Ma chi se ne frega? Va benissimo, lo abbraccio, ma che c'entra? Ma cosa c'entra il caso singolo col fatto che un signore ti ha appena detto che muore gente di 82 anni con 3 patologie? Se in tanti finiscono all'ospedale, ma non è in contraddizione, se in tanti finiscono all'ospedale si intasano gli ospedali, ma non l'avete ancora capito? Ma non l'avete ancora capito? Ma è un anno che dice la stessa cosa. Per morire di Covid devi averci più di 80 anni e 3 patologie. Se questa malattia fucila i vecchi, è una cosa molto grave naturalmente, però è come dire una malattia normale. Le malattie infettive purtroppo aggrediscono i più fragili. Ragazzi, non è che lo dico io, cioè lo sta dicendo uno che nel comitato tecnico scientifico. Quando lui dice normale, dai, dice un'altra ragazzi, cosa. Su, io l'ho ma ascoltata di che parliamo, tutta l'intervista a Piazza Pulita ieri. Su, è uno ieri. Che non viene, che naturalmente viene. Ma no, era Piazza una cosa, Pulita è ieri. La realtà, ma è no, la realtà. Guarda che ti sbagli, era Piazza Pulita ieri allora, sera. Che cazzo vuol dire? Allora... Ma mi hai fatto ascoltare un pezzo, io l'ho ascoltata tutta l'intervista. E come un pezzo, questo ha quando detto. Lui dice di normalità, spiega cosa intende per normalità. Ma ragazzi, ha detto è una malattia normale in cui muoiono solo ultra ottantenni, detto, la media è quella, c'è poco da fare, è così. No, ma ti sta spiegando, non ha detto, che andrebbe non va trattato. Quello non va bene, va d'accordo. Molto bene, ma Cacciari, l'ascoltala tutta. Senti, però Cacciari, senti, non Cacciari, alterare il suo ma pensiero. Non sto alterando niente, dai, su, ma diciamo, l'hai ascoltata tutta tu? Vabbè, dai, forza, no, Cacciari, non è vai. Vero che l'hai ascoltata tutta. Sì, sì, vai Cacciari. È la democrazia che è in pericolo, ecco. Sono le forme di democrazia liberale che sono emerse nel secondo dopoguerra, che prima manco c'erano, perché la democrazia di cui parliamo è una creatura giovanissima. Questo è del tutto casual, è tutto casual, perché se vogliamo discutere, possiamo discutere finché si vuole, ed è, non mi intendo di virus, ma mi intendo di logica. E quindi sono chiaramente interventi che non hanno alcuna logicità. Si tratta semplicemente di vedere dove sono i passaggi di minor resistenza per tenere il più possibile la gente a casa, appunto. Certo, questo è chiaro. Noi forse non ce ne rendiamo conto perché ancora siamo ben protetti, ma voglio dire anche ai miei colleghi dello Stato, del parastato, guardate che prima o dopo arriveranno a voi per forza, e io spero che ci arrivino presto. Fra poco arriveranno a quelli dello Stato, fra poco. Senti ancora questo, non basta dare i numeri, bisogna spiegarli. Cacciari lo dice, bisogna spiegarli, certo, capito? Spiegarli. Questo è chiaro, questo è giusto. Con Hegel lo si spiega. Ma giusto, dai, ma non capite niente, dai. Uno dei criteri fondamentali di un regime democratico è informare i cittadini. Informarli vuol dire non dare dei numeri, non dare i numeri, ma analizzarli, dire appunto che cosa, quanti percentualmente, perché i numeri in assoluto. Ma secondo lei non c'è abbastanza informazione? Allora ragazzi, voglio far ascoltare questa cosa del signor Becchi, del signor Paolo Becchi, quando dice che la mascherina è la sottomissione come il velo islamico. Vabbè, come possiamo il velo convenire islamico. Che è una cazzata, no? Possiamo dire che è una cazzata. Un gesto di sottomissione come il velo islamico. Concorderai anche tu che è una cazzata, immagino, ma spero. Sì, sì, certamente, ah, sì, ecco, certamente, male, sì, è una cazzata. Male, questa è una cazzata, la mascherina è un simbolo di sottomissione, è una cazzata, sì. Meno male. Le vedo veramente come un simbolo, ma come un simbolo di sottomissione. Cioè, veramente io vedo nella mascherina in Occidente quello che in Oriente è il velo islamico. Cioè, io ho visto uno che tremava per la strada, ho detto, ma cos'è, stai a rotta di qualche droga? No, voglio sapere quello che diceva Monica, voglio sapere quello che diceva Marco. La Zanzara. Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 71 7701. Non negateci un po' di sano qualunquismo. Primo giorno di lockdown a Laveno Mombello, provincia di Varese, da stamattina. Io sono in giro per lavoro, sono agente di commercio. Gli unici che sono in giro con dei sacchettini con dentro un panino sono tutti quegli stronzi oltre i 70 anni. Gli unici che sono in giro. È incredibile, incredibile. Oh, Cruzzoni, c'è fatto caso che Parenzo, ancora quel grandissimo rider. Pezzo di merda, quando parla dei migranti 100 sono pochi, invece quando parla dei morti di Covid 100 sono tantissimi. Allora, perché non si regola un po' la bilancia di quella sua lingua biforcuta, tarabino maledetto che c'ha? Questo è il rider, ragazzi, è numero uno. Maledetto. Il signor rider. Un razzista, questo signor rider. Un razzista, ragazzi, maledetto. Ieri a un certo punto eravamo di fronte ad una scelta fondamentale durante la puntata di ieri. Cioè, c'era un signore che si chiama Maurizio Ruggero, lo ricordo. Maurizio Ruggero, il quale dichiara di non avere mai fatto sesso in vita sua, perché concepisce il sesso financo, e vi dico financo la masturbazione, anche la masturbazione, solamente. A fine no, solamente col matrimonio, cioè, beh, cioè, prima del matrimonio nulla. E una signora che invece fa la transessuale, la signora Alessia Nobile, la quale sostanzialmente incula gli uomini. Ora, di fronte a una scelta secca, netta, tra farsi inculare dalla signora Nobile o vivere come Maurizio Ruggero, c'è un mondo in mezzo. Sì, ma io preferisco, io ripeto ancora una volta, ma la sottopongo a quest'ora, la diatriba, il dilemma, lo sottopongo adesso, la scelta. voi che cosa fate? Vivere come Maurizio Ruggero o farsi inculare dalla signora nobile? Scappa, o prendere il pisello della signora transessuale pugliese Alessia Nobile, carità. Ragazzi, ma non c'è scelta, ma non, no, cioè, ma non scappa, c'è dubbio, c'è ma no, che uno scappa con la macchina, no, ma in no. Quinta, scappa in quinta, ragazzi, con la macchina. E comunque in ogni caso, siccome ci ha autorizzato lui, vi do ancora per l'ennesima volta il numero di Maurizio Ruggero. Cioè, se avete fatto una scelta precisa, comunicateglielo. 34, il numero di Maurizio Ruggero, sì, sì, 347 36 03084. Lui sarà ben felice di rispondere. Ho fatto una scelta, preferisco vivere come te oppure preferisco prendere il cazzo della signora Alessia Nobile, ripeto, transessuale. C'è un mondo in mezzo, ci sarà pure può, un mondo, ma la scelta direi. Ieri era chiara, no, vivere come scelta, vivere e prenderlo carità. Nel culo dalla signora Nobile oppure vivere come Maurizio Ruggero. Ragazzi, di fronte a una scelta del genere, tu hai dubbi? Tu hai dubbi, Davide? Tu hai dubbi? Io scappo via. Ma vivi come Ruggero, cioè pur di non prendere nel culo dalla Nobile, vivi come Ruggero. Ma per carità, vivi come Ruggero. Prendo la macchina e scappo ma via. Ma non puoi, mettiamo via. Che non puoi, che la scelta sia secca. Ma che cosa fai? Carità, che cosa? Mettiamo, no, ma veramente te lo dico, mettiamo che la scelta sia non secca. Non esiste hai Maurizio Ruggero, hai Maurizio Ruggero, cioè praticamente se non sei sposato non puoi fare sesso, puoi fare sesso solo per procreare o prenderlo nel culo dalla signora Nobile. Che cosa preferisci? Non avrei dubbi, diciamo. Ruggero. Ma ragazzi, ma mi dispiace, se proprio sono messo spalle al muro, cioè, voglio stare spalle al muro. Maurizio Ruggero prendono il culo dalla Nobile. Ma io intanto un'alternativa a fare simile. Sesso, diciamo, con la Nobile, no, e dunque vabbè, anche prenderlo per il culo. Quello, però è un uomo la signora, con tutto il rispetto, la signora è un uomo e io francamente sono di un'altra azienda. Cioè, rispetto... preferisci l'estremista cattolico alla transessuale? No, ho detto semplicemente dai, che preferisco stare spalle al muro in quel caso, ma perché sono gusti miei, ma no, in questo non chiedo scusa. Ho capito, ma l'alternativa vivere chiedo come Maurizio Ruggero. Posso dire, chiedo, io mi scuso per questa mia posizione. Capisco che sia minoritaria, come no, tante non lo cose so se che è dico qua. Ma non lo so capisco. Se è minoritaria. Se a te invece va a praticare dell'altro, io dico solo evviva, perché invece il vero libertario sono io, il vero liberale. Praticalo tu, fallo tu. Chi ragazzi, se ne frega? Voci da rivolte di piazza o manifestazioni di piazza. Bergamo addirittura, questo è sbagliato, sotto casa del sindaco Gori, che non c'entra un cazzo. Direi. Però è un esponente del PD e la gente se l'è presa con un esponente del PD. Ma non è che si va sotto casa ma di no, uno per dimostrare. Un linciaggio praticamente. Ma un linciaggio, non è successo niente. Anche lui meno detto, male, non è che credo. Non è successo nulla. Sì, ma non è simpatico tornare a casa e trovare 40 tifosi facinorosi che ti fanno casino. Bisogna dormire! Domani mattina io apro. Non si dorme stanotte! Domani mattina io apro. Non si può dormire! Però sei solo te che apro. Che lavoro fai qui? Vai a casa. Io lavoro gente che vuole aprire i negozi, che ha visto i negozi chiudere, io la capisco quella gente lì, poi lascia perdere che sono andati sotto la casa di un politico a fare casino, certo, non è che l'hanno impiccato, hanno lavoro, fatto una certo, manifestazione, è chiaro che è brutto che modalità alcuni abbiano pazzesche. Aizzato la folla e andare sotto la casa di un sindaco, appunto, l'hanno fatto perché appunto. È esponente del Partito Democratico, non è che Gori chiude i negozi. E che competenze ha lui? No, nessuna, ma d'accordo, ho capito, ma non l'hanno impiccato, la non lo hanno impiccato. Quindi stai giustificando no. Della gente che va sotto casa, anche se non la, anche solo a urlare, stai giustificando gente che va sotto casa a urlare. Ma una, è una cosa ma indegna, non è che hanno fatto, non hanno fatto nulla di particolare, li stai non ci, difendendo. Ma non ci sono state, io non penso che, non ci sono stati episodi di violenza altro. Ma sotto la casa privata di una persona, ma è quello sì, d'accordo. Andate sotto il comune semmai, non sotto la casa privata dove vivono i figli, la moglie e i parenti. Ma Francesco, che discorso è? Anzi, Matteo, ma come da Ferrara, fai a giustificarli, non sto giustificando niente. Come no? Hai detto sono andati solo lì no, sotto casa. Ho detto che solo. Tutte le manifestazioni vanno bene, non è che hanno usato violenza. Questo ma dico almeno fino a prova contraria. Non vanno tutte bene, in questo caso non va bene. Matteo, pronto? Dimmi Matteo, dimmi. Allora, volevo dire che io e la mia famiglia siamo chiusi in casa perché siamo tutti positivi. Sì, quanti siete? In quattro. Sì. Mio papà che fuma da 30 anni non ha niente, solo un po' di tosse, quindi Parenzo devi smettere di dire delle cazzate. Nel vostro caso siamo felici, evviva, meno male. Io sono felice per suo padre e anche per voi. Ma sembra che muoiono tutti, secondo me. Non ho detto che muoiono tutti in alcun modo. No, ho ragazzi, detto che alla fine c'è un'ospedalizzazione alta, hanno purtroppo accusato oggi il di karma, è giusto che se lo sia preso online, sui social, eccetera. Il commissario tecnico della nazionale Mancini, che è positivo, asintomatico totalmente, non c'ha un cazzo. Non è poveretto, un cazzo, non c'ha una sega. Come Matteo, semplicemente ha delle tracce di Covid. Ma 51 anni non ha niente. I positivi asintomatici sono tantissimi. Dopodiché Carlo Conti è andato all'ospedale l'altro giorno. Carlo Conti, che palle. Ma io capisco che tu vuoi negare i fatti, ma va benissimo, è la tua parte, ok? Ma io invece parte? Non faccio una parte e ti dico semplicemente, non essendo tifoso di Matteo, nulla, allora come ti state? Dico che Conti fino a tre giorni fa era positivo asintomatico. Ecco, benissimo. Ma vada fuori, Conti fino a tre giorni fa. Ma contro la legge se vado fuori, voglio farti capire. Conti fino a tre giorni fa era, io sto dicendo delle cose banali e normali, che dovrebbero essere normali, credo, e quindi purtroppo banali. Te lo dice, ma uno non lo positivo sono. Che non ha paura. Bene. Matteo da Ferrara, non fai paura. Fino a tre giorni fa, Carlo Conti era positivo. Ma che ne sai che c'hai la cartella clinica davanti? Ma che cazzo no, dici? Allora non perché non leggi? Ma perché non leggi? Aspetta, fammi sentire. Scusa, vi sto dando solo un'informazione. Da 30 anni ha solo un po' di tosse. Dovrebbe, secondo la tua concezione, sono contento per tuo padre. In ospedale. No, sono felice per lui. Ci sono altri casi che dicono il contrario. Sono molto felice per suo padre. Francesco dalla provincia di Milano. Francesco, provincia di Milano. Vai, Francesco. Dimmi. Speriamo che continui così. Dimmi, Francesco. Buonasera, dimmi. Giuseppe. Buonasera, vai, veloce, agli ascoltatori. Dimmi. Ora io ho 20 anni. Sono uno studente dell'università. Sì. A ottobre ho trovato finalmente un lavoro dopo 6 mesi. Sì. Tempo 2 settimane. Con le misure del governo, l'attività ha dovuto chiudere. Così chiaro, sono tornato disoccupato. Tra l'altro, sono studente di economia. Ed è da gennaio che io sono chiuso in casa a studiare. Con quelle cazzo di lezioni online, ho pieno di palle. Allora? Sono 8 mesi e voglio dire che stasera io organizzerò con 4 amiche e con 3 amici una festa in cui ci divertiremo, berremo, alcuni limoneranno e ci scambieremo i liquidi corporei. I liquidi corporei, e non ce ne frega un cazzo se è contro la legge. Quanti anni hai, Francesco? Quanti anni hai? Ma guardi che la sfida però la fa a se stesso, 20 non anni, agli altri. 7 persone stasera limonano, probabilmente scopano, si scambiano liquidi corporei, sì, ma si ubriacano. Ma non è che dispetto a qualcuno, lui dice, no, voi se facessero dispetto a qualcuno. Questi stanno tappati in casa, ma che cazzo devono fare? Spiegami, cosa devono fare? Cosa devono fare? Cosa devono fare? Lo dite come una sfida, come se facessi un dispetto a me, che me ne frega. Fermi tutti, fermi tutti. La Zanzara. Hey, oh, let's go, let's go. Vaggiù, si unite parla al telefono che la Zanzara da fa l'800240024. Oppure se lui ti mandano ci faccio i miei messaggi. Coppa WhatsApp 393-71-71-701. Vabbè, Parenzo, ce l'hai fatta, finalmente ce l'hai fatta. Anche una città bella come Bologna, che è piena di tutte studentesse, belle, giovani, sempre belle, allora? Fighe, tutte fresche, e hai fatto seccare la figa. Ce l'hai fatta, hai fatto diventare i giovani vecchi e i vecchi giovani. Adesso in giro ci sono tutte le donne vecchie, mezze nude, e le donne e le fighe giovani, tutte camuffate. Mascherina, occhiali da sole, cuffia, guanti, giubbotto, esso, ciao. Cazzo, pensi di uscire con una bella figa, poi quando arrivi a casa che ti togli tutto, ma cosa c'è, cazzo, io, sei con un cesso. Brutta merda, Parenzo. Ma ho capito cosa c'è, bisogna spiegare a questo signore che io però con i suoi problemi non c'entro. Grande rider bolognese, nuovo protagonista indiscusso. Senti, ho letto da qualche parte che hanno chiuso la regione Campania non hanno chiuso la regione Campania con la zona rossa per un motivo molto semplice. Lo dice un dirigente anonimo ad un sito Affari Italiani. Perché non hanno chiuso la Campania? La vuoi sapere la risposta? Avrebbero dato fuoco alla regione. Avrebbero dato fuoco alla regione. se chiudi milioni di persone devi trovare i soldi per farli campare. Faccio altrimenti presente semplicemente una cosa, senti però. Questa cosa: il governo non riceve i dati e noi restiamo zona gialla, spiega un dirigente campano. Si sta aperti per evitare che i danni siano peggiori, ognuno è scontento ma tutti sono accontentati, meglio non muovere quello che non si saprebbe gestire. Mi stai costringendo a fare una cosa che non dovrei fare, a dire quello che non dovrei dire. Lo Stato non ha i miliardi, se non paghi chi è chiuso, che non sa di che campare. Abbiamo già visto che succede, il governatore è tornato sui suoi passi. Ragazzi, se chiudevano la campagna c'era la gente in piazza coi fucili. Questa è la realtà, questo è un, potrebbe e essere le regioni vero, possono dare i dati. Ma come De Luca cazzo era già vogliono. Questo è sbagliatissimo. Dai, perché se truffano sui dati fanno un danno ai loro concittadini. Ma c'è un dettaglio, le scuole lì le ha chiuse prima degli altri. Ma che c'entra, cioè, questo alcuni adesso? Settori De Luca li aveva già chiusi. Le aveva già chiusi Lorenzo provincia di Brescia. L'informazione è anche Lorenzo, dettagli. Dimmi che non è vero. Dimmi che non è vero. Ma chi se ne frega, dai Lorenzo, dimmi. No, ma per spiegare un fenomeno. Ma sennò, spiegare cosa? E se no potevamo tutti in banca. Per carità, va bene, ma c'è qualcosa di molto più grave che sta succedendo ed è negli Stati Uniti. Sta succedendo un attentato alla democrazia negli Stati Uniti. Che è successo? Sta succedendo qualcosa di vergognoso. No, calma, Lorenzo, calma. Innanzitutto fatti sentire bene, non so da dove stai chiamando, eccetera. Mi sentite? Io sto chiamando da Brescia, mi sentite? Sì, sì, cosa è successo? Cosa sai da Brescia? Cosa sai da Brescia del furto della democrazia? Ho qui i dati ufficiali pubblicati oggi dalla Public Interest Legal Foundation. No, calma Lorenzo, io non so di che stai parlando. 5.000 persone che nella città di Detroit hanno votato due volte, si sono registrate due volte. Ma quello è possibile, quello è possibilissimo. Sì, ma, inoltre che abbiano votato tutti. No, ragazzi, diciamo la verità, io non so. Più 33.000 persone. Più 33.000 persone. No, io non so quello che è successo. Fra poco, probabilmente verrà proclamato. Persone morte. Lorenzo, e che tra gli elettori può sia essere. Uno nato nel 1823. Essere, il Michigan non era uno Lorenzo, stato americano nel 1823. Allora, aspetta, Lorenzo, può essere che sia così. Io dico solo una cosa: non sono un fan dei ricorsi, non sono un fan dei brogli che non sono dimostrati. Dico solo una semplice cosa: se in Italia noi avessimo consentito a milioni e milioni di persone per votare per corrispondenza con la posta, una cosa quasi completamente incontrollabile, diciamo la verità, quasi perché completamente incontrollabile, incontrollabile, Davide, non diciamo cazzate, dai. Avreste fatto voi democratici, avreste fatto la rivolta. Ma stare, ma allora perché non l'hanno detto prima? Salvatore da Napoli in Arizona sembra più avanti Trump. Oddio, Salvatore da Napoli, giù. Salvatore da Napoli, dai. Salvatore, scusa, da Napoli. Allora, diciamo cose Salvatore non vere. Da Napoli, io parlavo semplicemente di una cosa: se si fosse votato no, per merito, corrispondenza, però, nel merito, non lo so, nel merito è tutto legittimo la Fox per me. News, che è la TV Salvatore della destra, da Napoli, Salvatore della destra da Napoli, americana, giù Roma, dice Salvatore di non da dire Napoli, cazzate. Salvatore da Napoli, pronto, vai. Dimmi. Pronto, io ho parlato di un principio generale, quello del voto per non è corrispondenza. Vero che scivamo tutti, andavamo in piazza e facciamo casino. Noi siamo gialli perché loro è fisica di meno degli altri regioni. Finisceva con noi. Ma chi dice niente? Io dico semplicemente che fino a qualche... Ma chi ce l'hai con noi? Stai sempre a parlare di noi. Salvatore... Sciacquati la bocca, pensa a Verdini, pensa a quella merda di Mediaset che ci vuoi tu, coglione! Ma questo è cretino, tutto quello. Guardi che prende soldi alla televisione, siete una banda! Ma viva questa... Lorenzo, ma questa... viva Napoli! Ma questo, ma questo è un coglione! Non riusciremo a campare, non so voi, ma non riusciremo a campare, ma perché cosa? Siamo Napoli! Ma tu sei un coglione! Giornate. Tu sei un coglione! Tu sei un tu sei un povero mentecatto! Vergognati. Ma tu sei un povero mentecatto. Vergognati, avete quattro. Dunque, sei un povero coglioni, sei un... coglioni, mi hanno pure denunciato. Come sì, sì, sì, tutti denunciati, tutti denunciati. Tutti merda come te. Tutti siamo il sole, il mare, voi siete solo nebbia. Ma questo, che cazzo vuole? Non ho capito. Cioè, questo che cazzo vuole? Ma ieri, zona rossa, siamo zona gialla, siamo sole. Sì, cielo. sì, zona siamo gialla. Siamo i migliori al mondo, non ci vuoi con noi. Salvatore, ti devi calare. L'ha detto pure il grande. Il napoletano è una marcia in più. Salvatore, il grandissimo progetto. Ma tu ne fai una questione etnica, non ho capito, una questione con etnica. Sì, perché tu ne fai una questione etnica, ma ci becchi sempre. Salvatore, sei un povero cretino. Sei un povero imbecille. Sei un povero imbecille. Ti mancherà qualcosa a te, mio vero. Sei un povero incredibile. Un sei un povero. Ma magari. Ma magari. Coglione. Napoli è bellissima. Mille colori. Napoli, questo è vero. Certo, ma che c'entra? Che c'entra? Bella o non bella? Senti, no, ieri hanno rapinato nella capitale, come giustamente fanno notare, la capitale dello scippo, la capitale dello scippo e del traffico degli orologi. Hanno rapinato due turisti, poi hanno trovato i Rolex di nuovo, però da qualche parte ho letto, li hanno rapinati nella capitale dello scippo e della compravendita degli orologi falsi. La tua città. Ciao Salvatore. Ciao. Non l'ho detto io, la capitale dello scippo. Ciao. Ciao. Mario da Salerno, avanti tutta, Mario, dimmi. Cruciani, ho un invito di una settimana e oltre a gratis a quel coglione che hai vicino a te. C'è un hotel 5 stelle di cui, oltre a vitto alloggio, gli do anche una puttana da strada. Perché l'offerta? C'è un solo coglione lì vicino. Ah, Parenzo dici. Parenzo. Beh, io però non ho bisogno, grazie dei suoi aiuti. Tu dei che suoi fai? Servizi. No, ne hai molto bisogno. Ti manca una laurea, non so quante ne hai, ma l'unica che ti manca è quella della strada. Scusami, Mario, tu che mestiere fai? Camionista? Sono un camionista. Ottimo, camionista Mario da Salerno, il quale offre una puttana di strada a Parenzo. Mi sembra di capire, cioè Mario, si è compresa anche quella. Ma non ho capito, perché stai facendo questa offerta a Parenzo? Non ne ho bisogno, grazie, mi arrangio da solo, senza i suoi aiuti. Se la tenga per lei. Lei ne ha bisogno. Lauree che ti manca, lei probabilmente l'unico strumento che ha per avere una donna è quello, quindi se lo tenga pure per sé. Anche io non quello, ho bisogno anche appunto, soprattutto appunto. Quello però esatto. Tu hai bisogno di una cosa importante, quindi lei pensi per sé. Lei pensi per sé, che a me penso io tranquillamente. Scusi Mario, non è che lei è uno di quelli che c'ha sul cruscotto del suo camion la testa di Mussolini? O no? Volevo arrivare a questo, no, io ne ho due, c'ho la testa del Duce e poi mi sono creato un pupazzetto con la faccia di Parenzo ti ascolto nella replica di mezzanotte. E poi c'è la terza testa, che è la sua, che è una testa di cazzo, quindi c'è la mia, quella di Mussolini, e la sua che è la testa di cazzo, quindi sono tre teste. Che lei quando ha. Mi piglia sonno e stanchezza per eccitarmi, mi piglia Cerfoni. Bravo. Quindi c'è la mia testa che hai una funzione sociale. Ma è utile, meno male, così non si schianta in autostrada. No, contro a tutti i camionisti fascisti abbiamo un pupazzo di Parenzo dentro la cabina. Poi, quindi siete sempre in tre: me, Mussolini, anzi, quindi due teste di cazzo e me. Ma è meraviglioso, è affollato il suo camion. Ce l'ho proprio a fianco al Duce. Affollato. Col sonno. L'eccitamento ti piglia sberle e mi eccito. È come se vado con una puttana. Un camion affollato. Il però suo, scusami, affollato. Mario, ma perché hai la testa di Mussolini? Che cos'hai? Una fotografia? Che cos'hai? Sì, una fotografia del Duce. Una fotografia del Duce. Ma la strada ti insegna questo. La strada ti insegna. Non ti insegna avere la fotografia del Duce, so. Oggettivamente non è che tutti i camionisti hanno la fotografia del Duce. Buona parte. Per quello cioè, invitato Parenzo. Tu stai dicendo che buona parte dei camionisti sono ammiratori di sua eccellenza. Del Duce, delle puttane e di Parenzo, perché Parenzo è lo sfogo. È un bel mondo. Scusi Mario, ma lei come mai è fascista? Perché ammira Mussolini? Come mai ammira la sua eccellenza? Spiegami Mario. Perché c'hai la foto, insomma, sul cruscotto del camion? Cosa ti piace di sua eccellenza? Mi piace, oltre, cioè secondo me, non, io non sono un reduce, non sono quello, ma mi è stato insegnato da persone a cui mi hanno insegnato dei valori e mi dicevano che dei grandi valori vengono espressi dal sistema di Mussolini. Così le hanno insegnato. Delle persone, quali persone? Le persone anziane, i nonni. I nonni. I suoi nonni. È interessante nonni. Però questa cosa della testa di Parenzo, cioè quando tu stai per addormentarti, quando tu vuoi eccitarti oppure vuoi sfogarti, eccetera, prendi a Parenzo, c'hai Parenzo come pupazzetto. In mancanza di una puttana che non è che la trovi facilmente, anzi stanno un po' diminuendo, c'ho Parenzo. Ma lei è anche sposato? Mi eccito. Allo stesso punto di una puttana. Addirittura. Beh, ci fa piacere questo. Ma è anche sposato lei, diciamo, normalmente, quindi oltre ad andare a prostituta, è sposato della vita quotidiana o no? Ero sposato. Poi la moglie giustamente quante volte ha detto, vai a puttane, ma posso Mario? Stare io con un imbecille così? No, e quindi se ne è andata. Quante volte vai a puttane, Mario? No, Adesso un po' meno, perché l'età comincia a sentirsi. Per quello vorrei trasmettere a Parenzo quelli che sono i veri sentimenti, farlo vivere sulla strada, quindi, farlo scusi, laureare. Mi faccia capire una cosa. Lei quindi è stato abbandonato dalla moglie, perché pure la moglie ha detto questo è un idiota, viaggia con Mussolini. E poi ne ha abbandonate due. Due mogli ne ha. Ne ha una adesso che è fascista come me. Ah, perfetto, lunga vita anche alla signora allora. Quindi andiamo molto d'accordo. Bravi. Però bravi. Scusa, ma perché devi criticare la vita sentimentale, no, di Mario? L'ha detto lui. Cioè, ha due mogli, una compagna, adesso diventerà un'altra moglie. Questa compagna fascista diventerà ex pure questa, perché non penso voglia essere connuta. Un ammiratore di sua eccellenza, al tuo pupazzetto, dovresti essere contento che sei popolare tra molti camionisti, caro David. Adesso comincia ad eccitarvi molto più con Parenzo, quando gli do degli sberloni, e forse per quello c'è anche un po' di borse sugli occhi, perché a forza di prendere schiaffoni da camionista, da destra e sinistra, gli sono arrivate quelle borse. Ciao Mario, ma... avanti tutta, ciao. Arrivederci. È un piacere. Ciao. La Zanzara. Onorevole Sgarbi deve uscire dall'aula. Sospendo per 5 minuti la seduta. Altro che Covid, vuoi una notizia seria, caro Giuseppe? Sono appena passato sotto il ponte della tangenziale di Bologna in via Stalingrado, c'è Maria, la mora, e quell'altra fighissima bionda, sono lì, stoiche, la mora e la bionda. Le veline! Think about all that you feel. Voi dovete temere la rabbia delle persone miti che vogliono solo tirare su la Claire, la Serranda, lavorare, hanno investito, hanno sanificato, gli avete chiuso tutto, gli date forse due spiccioli e poi gli fate anche la preghierina la sera. Guardate che finisce male. Guardate che finisce mamma male, mia. Guardate che finisce mamma male. Mia, ma cosa, mamma mia, non ha ragione forse? Non ha ragione. Tutte quelle migliaia di persone che manifestano per strada perché sono rimasti senza un euro. A te tanto che cazzo te ne frega, vergogna. A me me ne frega e come, perché vivo in questo mondo e quindi mi interessa e come. Ma a te che te ne frega invece che c'è il lavoro fisso? Tu c'hai il lavoro fisso, a te che te ne frega? Non hai mai visto un povero in vita tua? Salvini, ho visti tantissimi di poveri. Sì, dalla finestra dell'aereo. Sì, Salvini ha detto. Poi Capezzone, scusami, sì, Capezzone è un signore che sembra sempre un passante, no? Fa il commentatore. Sì, Capezzone è stato alleato del centro-sinistra, poi è andato col cappello in mano da Berlusconi e si è fatto candidare da Berlusconi. Ora fa l'editorialista per La Verità, ma allora, è uno che ha avuto anche delle risposte. No, ha delle è idee, un signore che ha delle idee, no? per carità, poche e confuse. È passato dal centro-sinistra al centro-destra con una velocità rara, e sembra quindi ha avuto anche delle. È stato anche in maggioranza con dei governi. Vabbè, allora? E adesso ce l'ha, sa lui la soluzione per ogni problema. Guarda che è incredibile quell'uomo. Gli sembra sempre il commentatore col ditino alzato, quando è stato anche lui in Parlamento. Lui è stato in Parlamento. Dice, non ha fatto un cazzo. Dice, non ha risolto nulla, un cazzo. Ma meno di nulla. Dici meno tu, di... Però, dici tu. No, dico io. Ma allora, dire, Salvini, adesso, se non io, hanno mi, più ammalassi, ricandidato, se poi, io mi ammalassi, chiederei. E mi ha pure bloccato su Twitter. Vabbè, mi ha pure bloccato. Ma che cazzo te ne frega? Ah, se io mi ammalassi, chiederei l'idrossiclorochina. Signor Salvini, questa mattina. Sì. Pazzesco. È tornato sull'idrossiclorochina. Sì, certo, che viene usata nei protocolli tedeschi, nei protocolli cinesi. E se io mi ammalassi, cinesi, la chiederei. Sì. Se mi ammalassi chiederei l'idrossiclorochina. Un messaggio devastante, perché non è un medico lui. Ma se è lui vuole chiedere idrossiclorochina, uno sarà ma è un libero, sarà libero di chiedere l'idrossiclorochina della... Ma uno è può pazzesco, chiedere anche guarda. Il sale della Vanna Marchi. Tu difendi pure il sale della Vanna Marchi, sai questa roba qua te. Ma se uno lo vuole il sale della Vanna Marchi, saranno cazzi suoi. Se uno vuole il sale di Vanna Marchi capire, se uno prende io voglio il sale di Vanna Marchi, ma sarà qualcuno libero? Gli dovrà dire, come ha detto giustamente Spezia ma stamattina, sta dicendo una cazzata. Cioè lei sta dicendo una follia. Ma se è pieno di gente leader. Che vuole l'idrossiclorochina e pensa di curarsi con l'idrossiclorochina. No, ma secondo me se uno la ma vuole. Ma fammi capire, lo Stato che deve fare, glielo deve dare, quindi, anche se non è certificata. Stato, cioè, costa se pochi euro se la comprasse. No, ma chi non la capito, vuole? Se è una terapia non riconosciuta, secondo ma te, siccome dice, c'è la lui libertà. Ha detto, lui ma ha detto, lui dice, se mi ammalassi, chiederei l'idrossiclorochina. È folle. Poi ha detto, se ti ammalassi di tumore, ti faresti curare da Salvini? Non credo. Ma che c'entra? Mica prendo esempio da Salvini io su questo. Allora, dice, bisogna lui dire che dice una stronzata. Prenderebbe l'idrossiclorochina della cura di Bella. Allora, Salvini dice anche, mi sembra strano che in alcuni stati stati ci siano più schede che elettori. C'è la famosa teoria del complotto, diciamo, delle schede finte. Ma ormai la destra in questa roba qua cavalca le paure e le follie. Diciamo che il fatto che in alcune contee ci siano più voti che elettori, più schede che cittadini, qualche dubbio giustamente lo fa venire, quindi che stiano fermando e ricontando mi sembra necessario, perché come se a Milano ci fossero 2 milioni di voti quando siamo in 1.200.000. Adesso questa cosa non è provata da nessuna parte, che ci siano più schede che elettori, diciamo. Nessuna. Allora, un altro grande negazionista si chiama Petrella, è un medico di Teramo. Senti questa cosa incredibile di ieri sera. Petrella, già ospite di questa disgraziata trasmissione, uno che disse a un certo punto: bastardi che date i vaccini, che volete dare i vaccini. Distrutto, senti, dal grande, senti, l'asta, senti, di Piazza Pulita, distrutto, senti, completamente. Senti. Tutti i ceppi dell'anti-influenzale di quest'anno 2019-2020 contengono il Covid-19, bastardi! Dov'è la prestigiosa ricerca che dimostra tutto questo che lei ha affermato? Allora, cioè che dentro gli anti-influenzali c'è sostanzialmente il Covid-19. Non esiste la parola Covid! L'ha detto lei. Esista il virus, sì, influenzale. Ho detto bastardi proprio perché loro falsificano questo dato sotto forma di Covid. Su 60 pazienti analizzati con il Covid, 58 avevano fatto il vaccino anti-influenzale. Sono dati che hanno fatto a Milano, studi che mi hanno comunicato. Quelli hanno fatto i vaccini. E qual è la fonte di questi studi? Qual è la fonte di questi studi? Me l'hanno mandato. E chi? Non sono tenuto a dirglielo. Gliela dico io qual è la fonte. La fonte, pensi un po', pensi un po', questo lo diciamo, è un messaggio WhatsApp mandato da una persona in cui diceva: mi sembra di aver sentito che su 60 malati di Covid 58 avevano fatto l'antinfluenzale. Cioè, un messaggio WhatsApp non può diventare la base scientifica, allora, su cui lei, che è un medico, pone allora, questo problema, capisce, professore? Ma scusa, è una realtà. Lei pensa che quindi l'antinfluenzale favorisca diminuisce il Covid? Le difese immunitarie. Ma non c'è scritto da nessuna parte. Ma che cazzo stai a dire? Non sta scritto da nessuna parte. Legga i testi stranieri. Questo lo trovo sta. Ma che cazzo stai a dire? In dialetto teramano. Senti, senti, senti. Lei ha detto che il vaccino contro il Covid rappresenta, se ho capito bene, un tentativo di modificare il nostro patrimonio genetico. Esatto. Il DNA. Esatto. È una manipolazione genetica. Ma i vaccini possono modificare il nostro DNA o no? E dove sta scritto che non possono? Ma dove sta scritto che possono? E dove sta scritto che non possono? Ma la scienza procede Ma quale scienza? Per verifiche. Di che? Per verifiche procede la scienza. Ma quale scienza? Il virus ce l'abbiamo dalla nascita. Ce li abbiamo tutti. Sì, ma il SARS-CoV-2 tutti, ce l'abbiamo? Tutti. Anche il SARS-CoV-2 ce l'abbiamo. Come il SARS-CoV-2? E non sa cos'è il SARS-CoV-2? Sì, sì. Ce l'abbiamo pure quello? Tutti i virus. Anche quelli che arriveranno ce li abbiamo già. Sì. E come mai improvvisamente a gennaio 2020 tutto il mondo in tutto perché il mondo devono distruggere l'Italia? Sì. Ah, sì? Sì, perché hanno creato apposto quello Bill Gates e tutti Fauci eccetera. Bill Gates è stupendo. Con i soldi ha finanziato Bill Gates. Bill Gates. Bill Gates è stupendo. Bill Gates. Io la trovo, questa cosa la trovo stupenda. Bill Gates. Questo gli dà l'idea del personaggio, no? Però ti dà l'idea di chi è. Medico radiato però, credo. Beh, tal. Dove sta questa epidemia, la pandemia? Dove sta questi morti? Perché non sono inventati questi numeri che dicono alla televisione? 3.000, 2.000, 4.000, li vedo a Galli, li vedo dappertutto. E voi date i numeri, non date le certezze. No, io ti dico, studia, lei con tutti gli altri. Va bene. Primo, secondo. Andremo tutti a lezioni da Petrella. Sì, okay. sì, ti insegno. Beh ragazzi, Bill Gates lo trovo. Mi fai sentire Bill Gates? Ma c'è gente che chiede, crede a questi qua. Aspetta, cosa pericolosa è questa. Aspetta, fammi sentire. Pazzesco. Gianfranco, Gianfranco dalla provincia di Chieti. Gianfranco, intanto la Danimarca, notizia di ieri che abbiamo un po' trascurato ma importante, abbatterà 17 milioni di visoni con un ceppo mutato dal coronavirus. Stupendo, ragazzi. Cioè, alla fine questa è la vera differenza di valori che ci sono tra un animale e un essere umano. Cioè, alla fine, se qualcosa... Cioè, non avrebbero mai abbattuto 17 milioni di esseri umani, no? Questa è la realtà. Ma per carità. La Danimarca abbatterà 17 milioni di visoni con un... Ma c'è un problema sanitario, e certo. E infatti abbattono, non si fanno problemi. Giustamente, abbatteranno 17 milioni di, di visoni. No, ma che problema c'è? Ma ci mancherebbe altro. No, perché tu sei anche, ragazzi, contro i visoni. Tu sei contro i visoni, contro l'utilizzo dei visoni negli allevamenti. Io sono a favore dell'allevamento dei visoni, ma per esempio. Ma secondo me l'allevamento dei visoni è una stupidaggine oggi come oggi. Perché non ti piacciono i visoni? C'è pure il riscaldamento globale, che se uno si mette il visone sembra una stronzata, anche Kitsch peraltro. Ma che cazzo dici nel visone? A me mi sembra Kitsch. Dopodiché, Gianfranco, se li devi Chieti, abbattere, vai. Perché c'è un problema sanitario, dico certo abbattiamoli. Gianfranco, provincia di Chieti, vai. Giuseppe, buonasera. Dimmi. Se ne poteva fare a meno di allevare 17 milioni di visoni, onestamente, perché, vabbè, lasciamo perdere. Volevo solo intervenire per quanto riguarda l'atteggiamento di molti giornalisti al riguardo del Covid, perché ho qualcosa da dire, se non è guarito da pochi giorni. Ho 59 anni, un'ottima forma fisica e me la sono vista brutta. In reparto ho visto ma come che mai? Strano. C'è. Strano, come mai? Strano. Senti come parli bene, ma non hai avuto niente, dai, forza. Gianfranco sta bene, è vivo. Cioè, ma le statistiche male, ti ha detto che è stato male, però molto. Certo, c'è gente che sta male, non bisogna c'è dubbio. Allora. Bisogna smetterla di dire che muoiono solo gli ottantenni con tre patologie. No, è la realtà. Devi andare prima in un reparto di terapia intensiva. Ma lei è la media, rincoglionito, è la media. La media di persone. Cosa c'entra? Certo che sono morti anche altri, no? Il problema è che gli ospedali non riescono a smaltire, ma grazie al cazzo, ma lo sappiamo già, questo è il punto, lo sappiamo. Ma chi minimizza, non rompete i coglioni, dai, su, ciao Gianfranco, ciao. Riccardo da Como, vai Riccardo, dimmi. Ciao Giuseppe, niente, stamattina sono uscito a fare colazione, ovviamente trasporto perché siamo in zona rossa, sì. E dopo che ho preso la colazione stavo tornando a casa, ovviamente insomma ho mangiato un pezzo di brioche. Sì. Da lontano sono arrivati i birichini, no? Non sento un cazzo, Riccardo, i vigili. Allora? Sono arrivati due vigili. Vediamo ancora. Niente, non si sente, dai, non si sente. Ciao. Nessuno farà delle multe perché uno porta il caffè e lo mangia per strada invece di mangiarlo. Mi sembra che la situazione qui a Milano, non dico che è molto tranquilla, ma insomma la gente esce, fa quello che deve fare a distanza e tutto. Allora io chiamerei un signore che non sentiamo da un po' di tempo, che si chiama Fabio Tujak, e fa, ricordo bene, è uno molto contro i gay, contro gli omosessuali, eccetera eccetera, ed è il consigliere comunale a Trieste, ex pugile, ex Lega, ex Forza Nuova, adesso si fa i cazzi suoi, è un tipo molto particolare. No, un coglione totale. Pronto? Fabio? Ciao, sì. Sono Cruciani, come andiamo? Sempre voi, ma... No, sempre, è un po' che non ci sentiamo. Ma sì, un po', sì. Comunque sono contento perché mi è arrivato il mio quinto figlio. Oh, quinto figlio. Sì, Riccardo Maria, ultra cattolico, sarà anche lui. Come? Che ne sai che sarà cattolico? Vabbè, se c'è la famiglia è tutto, no? Lo sai, se c'è il suo. Ho capito, ma che ne puoi sapere? Riccardo Maria. Magari diventerà comunista, che ne sai? Ma no, è impossibile. Magari diventa gay. Nelle famiglie sane non diventi né frocio né comunista. Purtroppo, se le varie famiglie sono tutte più incasinate, i froci e i comunisti sono sempre di più. Ah, i froci e i comunisti, tu dici? I froci e i comunisti. Ho sempre più ammirazione per l'Islam, perché insomma, là, in gran parte dei paesi islamici ci sono ancora le carceri, pena di morte, come avevamo noi ma nel Medioevo. Omosessuali, comunisti. Ah. E il bello è che lo sai che noi accogliamo migranti che dicono di fuggire delle violenze di genere, arrivano qua, non si fanno di test per vedere se sono froci o meno, e dopo violentano le nostre ragazzine. Scusa, adesso però una ricostruzione un po' particolare questa. Però è così, noi continuiamo a dare accoglienza, visto che non hanno guerra, anche in Niger miseria, c'è la pena di morte, non per gli omosessuali come avevamo noi. Ma perché vuoi la pena di morte per gli omosessuali? Non ho capito. Non ho detto che la voglio, però in Nigeria c'è. Beh, hai detto che ammiri i paesi dove c'è la pena di morte per gli omosessuali, scusami. Ammiro che loro sono rimasti indietro su certi valori come noi abbiamo completamente perso. Sono rimasti indietro, appunto. Guarda che la loro cultura diventerà la nostra, e quindi non preoccuparti. Comunque è sicuro che su 5 figli uno è omosessuale, cioè statisticamente sicuramente può succedere. No, però guarda, abbiamo avuto la fortuna di avere uno disabile grave, quindi insomma non è che che c'entra disabilità? Questo non vuol dire, cosa vuol dire? Scusa, guarda, che cazzo di paragone è? In Nigeria infatti c'è la pena di morte per gli omossessuali. Ma non ho capito, ma se tu avessi che c'entra disabile con l'omosessuale? Sai che abbiamo dato accoglienza, abbiamo dato la protezione internazionale all'assassino di Pamela Mastropietro, perché la protezione internazionale perché fuggiva da violenza di genere. Sì, ma che c'entra adesso? Si è detto gay e dopo è diventato questa ragazzina. Scusami, purtroppo non ci abbiamo fatto i test per vedere se sono gay. Scusa, secondo te, Parenzo, Tujak che dice Frocio andrebbe incarcerato? Andrebbe sanzionato con sicuramente. Lo sai che in Russia c'è la legge anti-gay? Con questa nuova legge, che ancora non è legge. Io non vedo l'ora di finire in carcere perché sono morto. Sarai presto servito. Sarai presto servito. Presto viene fuori un casino. Spero un'invasione della Russia. Là c'è la legge anti-gay in tutti i paesi dell'est. Questo è sempre più lucido ogni volta che uno lo chiama. Ungheria, Polonia, tutti i paesi che hanno sconfitto il comunismo fanno le leggi contro i gay. Non hanno mai visto un negro dal vivo. Lo sai? Ma perché ti fanno schifo due che si baciano o che fanno sesso? Non è un caso che si inculano a tutta forza senza vaselina. Il problema è che noi qua in Italia non facciamo figli, accogliamo negri che ci pagheranno le pensioni. Questo mi sta altamente sul cazzo. Ma scusami, che ti frega se due fanno sesso, si inculano, che te ne frega a te? Perché ti fanno schifo? Guarda che se mi potranno fare schifo che si inculano, il problema no, è ma fai schifo tu, a me fai schifo tu invece, vedi? Okay, il fatto che a me fai schifo tu a casa Leone non può essere, non mi dà nessun fastidio, anche se in più di un terzo degli stati del mondo c'è la pena di morte al carcere, a me non mi dà nessun fastidio perché la pena di morte, adesso siamo arrivati alla pena di morte per i gay, ma per te sono i malati? Per te sono malati, sì o no? Ma lo sai che più di un terzo degli stati del mondo c'è la pena di morte? Ma per te sono malati o no? Sono deviati? Che cosa sono? Chiedilo in Nigeria e in Arabia Saudita. Nigeria. Chiedilo in Pakistan. No, ma non sarà mica un modello il Pakistan, sarà mica un modello. In Afghanistan c'è la pena di morte, lo sai? No, ma chi se ne frega? Mettiamo che questo tuo quinto figlio sia. Mettiamo che questo tuo quinto figlio sia. Afghani e pakistani, con tutto che abbiamo la Lega qua in regione, siamo pieni di afghani e pakistani che hanno già fatto un casino con le ragazzine. Ma che hanno fatto? Ma che hanno fatto? Perché no, vai, prenditeli a casa tua. Ebbene, noi li accogliamo perché fuggono dalla violenza di genere, perché c'è la pena di morte. Scusa, tu la metti la mascherina? La metti la mascherina? Pensi che facciamo qualcosa? Ma dai, ma su, siete, hanno distrutto l'Italia. Con che cosa, scusa? Chi ha distrutto l'Italia? Con cazzo di influenza. Ma perché non ci credi? Non ci credi al virus, tu? Beh, il virus c'è, è un'influenza molto molto più forte che delle prenditela altre. Perché non te la prendi così eliminiamo un problema? Guardi i dati di quanta gente è morta l'altro anno e gli altri anni di influenza. Dunque non ho capito, per te il virus è un'invenzione di chi? Ma è un'invenzione di chi? È un'invenzione di chi allora? Ma questo è scemo. Dei banchieri che vogliono distruggere la nostra economia. I banchieri hanno fatto anche il virus, i banchieri. Ah sì, i banchieri, ma chi controlla? Hai preso, come sei un ex pugile, hai preso troppi pugni in testa e sei diventato scemo nel giro di pochi minuti. Proprio scemo, scemo. Intanto hai esaltato Priebke di recente, hai esaltato il signor Priebke. Sto coglione. Per Priebke ho sempre ammirazione perché era ultra cattolico, andava ogni giorno a messa. Beh, oltre a quello però aveva anche altre, quello non c'entra. Ne ha combinata qualcuna di grossa il tuo amico. Che c'entra che era ultra cattolico? Chi se ne frega che era ultra cattolico? Io sono cattolico, posso essere cattolico. No, tu sei un coglione. Tu sei un coglione, tu. Sei un coglione, un coglione. Priebke è un criminale, per fortuna è andato. Ma se vuoi puoi raggiungerlo, se vuoi poi, perché non lo raggiungi? Oltre ad andare ogni giorno a messa a pagare il latino come che faccio io, era un criminale, anche se pregava il latino, era un criminale. Ha lasciato un'intervista che aveva 90 anni e lui ha detto: non c'è nessuna possibilità che torni in nazismo. Però io resterò, voglio morire nazista per tutta la vita, perché accontentato, una missione e beh, che c'è? Accontentato. Veglia su di noi in paradiso, lui ha fatto il ma suo. Che veglia su di noi, era un criminale, signor Priebke. Cioè, e comunque il nazismo trattava i gay come tu vorresti, cioè come tu vorresti trattarli. Anche il comunismo, anche i musulmani, in più di un terzo di paesi del mondo, incredibile. Ma sai che in quasi tutti i paesi africani c'è la pena di morte. Ti devi aspettare tuo figlio gay, tuo figlio gay. In Cina c'è la pena di morte per delle fino al 2000. Sì, ma infatti non è un paese civile. Infatti non è un paese civile. Infatti non è un paese civile. Se la terza guerra mondiale la vincerà la Cina, diventeremo tutti comunisti, allora non ci saranno più diritti LGBT, ci sarà di nuovo la pena di morte per sì, esatto. Vabbè, ormai sai che secondo me a uno così gli andrebbero tolti i figli? A uno così andrebbero tolti i figli, secondo me. La Zanzara. Io fra la teoria di Maurizio Ruggero e quella di Alessio Nobile, preferisco quella di Alessio Nobile, in altri casi comunque preferisco Alessio Nobile. Lei ha frequentato il mondo della politica, adesso lo osserva, lo racconta e lo critica. Consigli? Consigli, studiare molto, meno uno studia più hai rischi di dire cazzate. Bill Gates. Alessandro da Napoli, vai Alessandro, vai, dimmi. Salve, buonasera. Dimmi. Allora, sì. Allora volevo dire una cosa per quanto riguarda la signora che è stata chiamata ieri sera, che faceva quell'appunto sulla pedofilia, sull'aborto, perfetto. Io vorrei fare questa domanda a quella signora. Mettiamo caso che una sua parente o una sua nipote di 14-15 anni venga abusata da un prete e venga, diciamo, viene messa incinta. In che modo reagisce? Non lo deve tenere quel bambino? O abortisce? Questa è una cosa che vorrei dire. Cosa vuoi che ti dica? Non lo so, cioè poi magari anche le persone più oltranziste, più estremiste, messe di fronte a casi personali diventano più moderate, non lo so, magari quella persona consiglierebbe a sua nipote o a sua figlia di abortire, che ti devo dire? Ciao, ma in quel ciao, caso ciao, abortisce. Ciao. Anna da Milano, eccoci qui, Anna da Milano, vai. Buonasera. Dimmi tutto, Anna, dimmi tutto. No, niente, volevamo parlare di fidanzati. Vuoi parlare allora di fidanzati, che è successo? Sì. Allora, è successo che avevo un fidanzato fino a poco tempo fa che vi ha sempre ascoltato. Quanti io anni sempre ha lei, signorina? Quanti anni ha? Ti sorprenderò, 20. 20 anni. E ascolta questa trasmissione, lei che ha 20 anni, che è ancora. Sono maggiorenne, che problema c'è? No, voglio dire, magari puoi impiegare il tempo in modo migliore. Comunque, ma che prego, cazzo te frega a te, non ho capito. Infatti, il punto è che il mio fidanzato va sempre ascoltato, io sempre adesso. Sì. Certo che sta dietro a questi qua, esatto, e sta della ottimo, gente, dalle scarse prestazioni sessuali. Esatto. Adesso che mi sono lasciata, sono single, infatti le mie prestazioni sono diminuite. Le tue? Le mie prestazioni, ha detto. Sì, diciamo così. Cioè, le tue sono diventato come tutti quelli che ascoltano la Zanzara, diciamo questo. Cioè? Che vuol dire come tutti quelli che ascoltano la Zanzara? Non credo, non è che tutti quelli che ascoltano la Zanzara che hanno le prestazioni, cioè sono meno prestanti, non ho capito, cioè hanno meno prestazioni sessuali. Esatto, la mia insinuazione era proprio quella. Cioè, non ho capito, perché col tuo fidanzato che ascoltava la Zanzara le prestazioni sessuali com'erano? Erano, allora, diciamo che è stata un'escalation, all'inizio così, poi invece si è migliorati. Ma che c'entra questa trasmissione? Evidentemente c'è un rapporto tra chi ascolta qui e certo, chiaro. Io, allora, sono partita da un'insinuazione per poi arrivare, io single che dico, che mi sono ritrovata nell'insinuazione che ho fatto. Cioè, non ho capito. Adesso le tue, la tua situazione qual è? Tu sei single, giusto? Esatto. Cioè, le prestazioni sessuali del tuo fidanzato, grande ascoltatore della Zanzara, com'erano? Erano all'inizio scarse, poi con allenamento. Ho capito, ma non c'entra niente, non c'entra nulla la trasmissione. Cioè, non è che lui ascoltando la Zanzara era meno prestante sessualmente, cioè aveva. Non c'entra nulla, non c'è nessuna relazione. È un'insinuazione. Vabbè, Anna, ti saluto. Ciao. Carlo da Bergamo, vai Carlo, dimmi. Oh, io sono di Bergamo, ieri sera ero davanti al comune. Sì, sì. E quindi mi meraviglio che Parenzo, un liberale, si preoccupi del fatto che cittadini liberi semplicemente, civilmente, sventolino qualche bandiera. Ma perché italiana. Sotto casa del sindaco? Uno va davanti al comune, perché non sotto casa del sindaco. E poi se il sindaco, dopo un'ora che siamo sotto il comune, non si fa vedere. Questo vi autorizza ad andare sotto l'abitazione privata? Questo non ho capito. Vabbè ragazzi, ma dai su, ma che roba, ma nessuno. Ma non è che hanno sparato, le finestre. Ma dimmi una cosa, è una questione di. Ma tu che sei un commerciante, cosa sei? Di grammatica. Io sono un avvocato, sono un libero cittadino, non me frega niente di commerciante. Perché sei andato lì, scusa? Perché sei andato lì? Per rompere i coglioni. Sono andato a rompere i coglioni perché sono un libero cittadino, mi piace manifestare il mio libero pensiero. Benissimo, ma manifesti davanti, non so. Sotto casa. Se uno mi viene sotto casa e gli danno la zona gialla dopo quattro molotov. Ma non è esattamente così. Non è esattamente così. Non è esattamente così. Oddio, insomma, dai, forza, dai. Non è proprio esattamente quel dirigente, no? Hai sentito quel dirigente, no? È una forzatura, ma un governatore. Scoppiamo la guerra civile con la zona rossa, dai, su. È vero. Dai, l'ha detto un dirigente della regione Campania. Se davano la zona rossa alla Campania, succedeva l'ira di Dio. Dai, c'era la camorra. Dai, in piazza. Se dovessero aumentare i contagi, è ovvio che daranno la zona rossa. Mi sembra talmente evidente. Pazienza, Parenzo. I giornalisti ci danno dei fascisti perché hanno sventato due bandiere italiane. Dai, per ciao, Carlo. Ciao. Come mai in Danimarca non si sono fatti problemi? Daniela Martani, come mai in Danimarca non si sono fatti problemi ad ammazzare, non si faranno problemi ad ammazzare 17 milioni di visoni? 17 milioni di visoni con un ceppo mutato del coronavirus. Come mai? Come mai non si fanno problemi? Perché non contano un cazzo, evidentemente. Vabbè, se mi fai parlare, ok? Dimmi. Adesso voglio parlare. Allora, tu sei un grandissimo ignorante perché prima ti ho sentito parlare e hai detto una cazzata enorme. Qual è? Allora, quella che la colpa della diffusione del virus è nostra, perché questi animali che dovrebbero vivere in natura liberi e non chiusi nelle gabbie, in gabbie piene di escrementi, dove perché i visoni non ti piacciono, luce, i visoni non ti piacciono. Ma senti, fammi parlare, non mi devi prendere per il culo. Ma i visoni ti piacciono o no? I visoni non piacciono neanche a me, per la verità. Secondo te, dico, in un paese dove ci sono 5 milioni e 8 di abitanti, Danimarca, questa popolazione hanno 17 milioni di visoni, producono visoni. Perché quella gente si deve comprare ancora le pellicce, stiamo ancora con le pellicce nel 2020 quando ma perché qual è il problema? Qual è il problema? Non ho capito. Il problema è che ancora non hai capito, ancora con queste pellicce stai. La causa della diffusione, la nascita sono focolai di virus, l'hai capito o no? Che gli allevamenti sono la causa della nascita, ma lasciamo della diffusione perdere, scusa perdere, un attimo, ma se pensi che il virus non sia pericoloso, che ti frega però? Ma non ho capito una cosa, scusa, perché i visoni non si possono allevare? Spiegami. Non hai capito? No, ma lascia perdere il virus, ma adesso perché? Per cui ne siamo, tu stai chiuso in lockdown. Sì, per colpa degli allevamenti di visoni. Per colpa degli allevamenti di visoni. Certo, perché allora fino a prova contraria. Ma nessuno sa niente ancora, dai, su. Fino a quando non dimostreranno che questo virus non è zoonotico, quindi non è nato in Cina da quei cazzo di wet market che sappiamo dove ammazzano gli animali per strada e da là è nato, perché dicono che è così. Ma non ho capito, successo. Ma che ti hanno fatto di male i visoni? Che cosa ti hanno fatto di male? Capito. Le pellicce di visoni? Ma perché la pellicce di visoni? I visoni devono stare liberi, non devono essere allevati per essere ammazzati. Ma questi non è neanche più chic la pellicce di visoni. Ma anche in Italia è pieno, anche in Italia. Ma anche in Italia è pieno. Ma è pacchiana la pelliccia di visone. Per diventare visone, per diventare pelliccia. Ma anche in Italia, ma è anche elegante proprio. È proprio roba da vengono, scusami, ma tu sai come vengono tenuti questi bisogni? Ma non lo so, ma devono essere tenuti secondo la legge. Secondo la legge, secondo la legge. Ma a parte quello, è inelegante girare con la pelliccia di visone. È totalmente una roba inelegante. Basterebbe questo. Ok, non c'è la luce. Tra l'altro loro sono animali semiacquatici, quindi tu li hai privati di poter, che ne so, andare in acqua. Ma dei visoni vanno utilizzati per fare i visoni, dai. Ma negli anni 80, negli anni 80 basta. Loro si flagellano da sole, si fanno del male perché non riescono a stare nelle gabbie, poveracci. Ma che facciamo? Chi sono? Nazisti? Quelli che allevano i visoni sono dei nazisti? Sono dei torturatori? Che cosa sono? Sono dei nazisti, sì, perché secondo te quando prendi degli animali li porti nella camera a gas e li ammazzi in quel ma modo? Ma viva gli allevatori di visoni! Ma viva gli allevatori di visoni! Guarda, senti, ti posso dire una cosa: tu dovresti stare in lockdown tutta la da ora in poi per tutta la fine della tua vita, hai capito? Perché non hai capito un cazzo. Ma questo è pazzo totale. Cioè, non ho tu in Italia c'è gente che ti posso dire dove stanno. Allora, in Italia ci sono 60.000 animali, 60.000 visoni, ok? Sai dove stanno i principali allevamenti? In Lombardia, caro. Ottimo. È cosiddetto. Come che c'entra? Hanno già trovato dei focolai in quella zona. È colpa di questa roba qua. In Lombardia ci sono tanti casi perché ci sono gli allevamenti di visoni. Beh, non credo questo adesso sia una follia. Allora, loro dicono che potrebbe fare il salto di specie. Io adoro la pelliccia di visone, ok? Mai più lamentarti del fatto che sei chiuso dentro casa, che non c'è la gente, non c'è più lavoro, che praticamente noi rischieremo l'estinzione. Però voglio dire una cosa: continuiamo con gli allevamenti, continuiamo a chiudere gli animali in questi luoghi. Ma i visoni sono ottimi per essere trasformati in pellicce, straordinari. Ma ci sono un sacco di pellicce ecologiche che si possono utilizzare se è proprio da vuoi. Ma la pelliccia in generale è una roba poco elegante, dai. Hanno trovato la cosa in comune la Martani e Parenzo. Ma no, però mi sembra evidente la pelliccia, Daniela, roba una cosa, perché lei è un po' una petrella in gonnella. È un po' una petrella in gonnella, la signora Martani. Per lei è quel medico intervistato ieri sera, anche qui in questa disgraziata trasmissione, è un medico abbastanza negazionista. Il quale dice che il virus dice che il vaccino anti-influenzale, più te lo fai, peggio è. Cioè, più ti fai il vaccino anti-influenzale, peggio è. Ed è la stessa tesi. Lo dice Petrella. Ma tu non te lo fai? Assolutamente no. Tra l'altro, ti volevo dire, a proposito meglio di questo, ci sono più dosi degli altri. Voglio dire che c'è il cognato di una delle mie migliori amiche, che ha 68 anni circa, che si è fatto il vaccino anti-influenzale 20 giorni fa. Dopo due settimane gli è venuto il COVID. Io l'ho fatto due settimane fa. Io ho fatto tre settimane fa il vaccino. Ma che cazzo vuol dire? Speriamo di no. Speriamo di no. Ma l'ho fatto a prescindere. Poi me lo dirai. Se lo avrò preso il COVID, ho fatto il vaccino. La tesi di Petrella, insieme anche della Petrella in gonnella, la signora Martani, è questa qua. Cioè, più ti fa, e non solo loro, una la tesi Martani diffusa. La tesi è questa: più ti fai il vaccino anti-influenzale, più è possibile che ti prendi il coronavirus. Questa è la tesi. Ma perché, certo, perché quando tu fai un vaccino che le tue difese immunitarie si abbassano e quindi sei molto più esposto. Ma non è che lo devo dire io, basta studiare. Cioè, tu sei contro i vaccini anti-influenzali. Io mi ricordo che quando lavoravo in Alitalia, ok, pure. Ecco perché è fallita l'Italia. Personaggi come te. Mi fecero il vaccino per la febbre gialla. La febbre a 40. Ma che c'entra la febbre gialla? Non è che ti è venuta la febbre gialla, però. Che cazzo vuol dire? Quanto hai lavorato tu in Alitalia, Martani? Mi interessa. 11 anni in Alitalia. Tu non sai che cosa significa lavorare. 11 anni. Aspetta un attimo. Azienda fallita. Ma no, fatti 12 ore solo di tu ti sei alzato alle 4 del mattino, capisci? A fare un cazzo lì, a servire due bicchieri di Coca-Cola. Ma vergogna, dai. Solo e soltanto perché, grazie a Cruciani, tu gli dovresti fare una statua. statua che non so per quale motivo continua a tenerti in radio. No, ma io faccio, anche altro nella mia vita, però inutile, faccio anche altro io nella mia vita. La mascherina, io non ho capito. Dunque, tu sei no mask, no vaccini anti-influenzali, sostanzialmente un negazionista del Covid. No, cioè, sostieni che è tutta una bufala, ci stanno pigliando per il culo sui contagi quotidiani. Questa è la storia. Ma ci vuole uno scienziato. Cioè, tu non hai paura di questo aumento di contagi? Non hai paura di questo aumento di. Ma pensa un po', ma lo sai quando è che sono aumentati? Da quando hanno messo la mascherina obbligatoria all'aperto? E tutti la portano, io ti faccio un video, se vuoi domani io ti faccio un video. Vabbè, adesso però tu stai dicendo che più mascherina è, più ci sono contagi. Scusami, ma basta guardare, ma guarda i numeri, cioè guarda i numeri. Cioè, ci stanno l'affollamento degli ospedali è una cazzata, quello ma che ci racconta. Ma le mascherine obbligatorie non avrebbero dovuto abbassare i contagi invece di aumentarli? L'affollamento, evidentemente c'è qualche problema. L'affollamento degli ospedali è una bufala. L'affollamento. Allora, senti, io ieri ho messo un Twitter, no, dove c'erano i medici e gli infermieri di Torino che si lamentavano, sì, dicevano no, che negli ospedali, c'è la gente, per terra. Tu vai a vedere 2018, per terra, nel 2018, il titolo del giornale, 2018, influenza stagionale, gli ospedali, cioè, sono pieni, che non è sempre una cosa. Torino, sempre Torino, i pazienti sono sulle barelle, non abbiamo più posti, è emergenza. Cioè, succedeva la stessa cosa. Ma non è cambiato assolutamente nulla, il problema qua non è tanto il coronavirus, che è un virus che c'è influenzale, allora, come ha detto qual è? Come ha detto fra l'altro. Vabbè, allora qual è il problema? Membro del comitato tecnico scientifico, insomma, sì, l'abbiamo sentito ieri. Ok, il problema è che hanno fatto i tagli alla sanità, hanno distrutto la sanità italiana, si sono fregati i soldi, hanno chiuso gli ospedali, soltanto nel Lazio hanno chiuso i 12, ok, vabbè, va bene, ok, quindi il problema è questo, non c'hanno personale, tutti. Non c'hanno medici, non c'hanno eletti. Ciao, e Daniele. Quindi basta con gli allevamenti intensivi, perché sennò saremo ancora così a vita. Forza Visoni, ancora. Forza le pellicce di Visone, mamma dai, sì, vabbè, fermo là. Chiedo scusa, un momento, chiedo scusa, pubblicità. La Zanzara. Parenzo, Parenzo, sei il solito coglione, cioè fai tanto quello di sinistra, aperto per i diritti LGBTQ, e poi vai a dire che una donna trans in realtà è un uomo. Fai proprio schifo, sei la vergogna, cioè della sinistra e non la vergogna in generale del mondo. Da 2 anni al massimo. Ricorderemo questa pandemia chiusa in casa come una felicità dell'oro. Oh, mamma. Perché se vende Biden, tra 2 anni avremo la guerra con la Russia, sarà una guerra nucleare. Mm. Queste ore è un momento epocale dell'umanità. Epocale, sì, sì. Siamo veramente sull'orlo dell'apocalisse o della ripresa della libertà e della vita. Quindi, questa sera, prendete un rosario e pregate per Trump. Ma non c'è se più non bisogno. Siete capaci, non importa. Ma sì, sì, pregate, tanto mai ha vinto Biden. Un Padre Nostro, 10 Ave Maria, una decina. Allora ragazzi, abbiamo con ricordiamo noi. Ricordiamo solo che questa signora qui, che hai fatto sentire adesso, collabora, ma lo dico così, per il giornale La Verità, che tra gli altri si fregia di avere tra i suoi collaboratori, oltre a questa qua, pure il signore 1, 2 e 3. Fate voi. Ma fate tu lo voi. Sai, tu lo sai fate che voi. Nella legge appena approvata al Parlamento, quella Zan, c'è un'ora, appena approvata alcuni articoli, un'ora di lezione di antidiscriminazione nelle scuole? Cioè un'ora di lezione io ti giuro, se fanno fare a meno mia figlia un'ora di antidiscriminazione nelle scuole, non c'è. Ti ricordo che c'è un ragazzino di Pescara che follia. È stato pestato perché gay. Ma che gay. Cazzo c'entra? Un ragazzino di Pescara. Ma prendono quelli e li mettono in galera e buttino la chiave. Un gruppo di ragazzi. Ma cosa c'entra? Che gli dicevano brutto frocio e lo hanno pestato. Ma cosa c'entra guardati con la lezione di antidiscriminazione un'ora? Perché bisogna insegnare a scuola di antidiscriminazione. Che cosa sono le discriminazioni? Assolutamente sì. Assolutamente. Ma magari guarda se la Fano, ti giuro, impongo a mia figlia di non ce la mando, sì. Non ce la mando se sarò, capito, nella condizione di farlo. Ma lei sarà più forte di te, dirà, mi ma interessa capire. Ma con noi capire. Paola Saulino! Oh mamma mia! Come stai tesoro, come bene, stai? Benissimo, benone, grazie. Allora, grazie mille. Grande protagonista sull'Instagram, più di 1 milione di follower. Allora, io dico solo una cosa. Una mezza matta patentata, insomma, diciamo tutte. Ma che mezza matta, ma per una mezza matta patentata. Questo è il livello della discussione, esatto. Per me è un livello troppo basso. Scusi signora, esatto, però, esatto. Come fa a dire livello basso una che parla? Ma come fa a parlare a dire questa livello allora, basso? Stai signor Parenzo, lei una che parla di ste minchiate. Anche come parlo, anche anche il mio club, mentre la redazione della Zanzara a me chiamava, non sapevo manco tu chi eri, e rimani comunque sempre solo il comparello di Cruciani che fa la Zanzara, quindi non so niente, facci una domanda, ma, questo, ma non se la prenda aspetta, con me, io me la prendo con il suo modo di litigate? Parlare, ma... io semplicemente voglio chiedere, una cosa alla signora Saulino, no, sì, allora ecco. Parenzo non argomenta, se questo è il livello della discussione, ma per me è un livello troppo argomentare. Basso, allora alziamo il livello, alziamo il pistillo ancora che sarebbe questa scemenza. Allora, però, io odio questo modo che lei ha di parlare, sì. Allora però la, nei giorni scorsi la signora Saulino ha fatto una proposta, cioè chi vuole passare il lockdown con me paga e paga. Io di proposte sotto il milione sente. Di proposte sotto il milione non ne prendo perché uno può tranquillamente vendere il proprio corpo o le proprie non c'è nulla di male, non c'è nulla di male allora, a vendere. In realtà io ho proposto di passare il lockdown con me, poi quello che accade tra quattro mura saranno pure cazzi miei, sì, io e il mio partner possiamo pure raccontarci vicendevolmente le novelle, cioè, del tu hai detto io dover sono monitorare gli affari sono nostri. Disponibile a passare il lockdown con una persona per una cifra non inferiore al milione di e euro, nessuno ha risposto, non ovviamente infatti assolutamente, perché ne valgo la pena, insomma. Sì. Ma chi è che ha risposto? Nessuno. Un'esperienza, sì. E questo è importante. Di conseguenza, chi ha intenzione di pagare questa cifra? Nessuno. Comunque, in generale, tu, scusami, l'asta è andata a deserto. Scusi, diciamolo in generale, subito aspetta, così. Aspetta, invece ti sbagli. No, invece ti in sbagli. Realtà, no, sono io che, però, ovviamente, prendendo le distanze da tutti coloro che mi scrivono, devo capire se c'è una proposta realmente fattibile, ma pure per mettere la mia persona in sicurezza. Ma che quante persone ti hanno scritto fino adesso? Allora, sicuramente tantissime, ma perché magari vogliono cogliere l'occasione per aprire una chat con me o per essere risposti o per aprire una trattativa, diciamo, una piccola trattativa di denaro in cambio di sesso, magari non un milione, ma qualcosa. Vabbè. Ma in realtà, ti ripeto, Giuseppe, non è per forza in cambio di sesso, quello che accadrà lo sapremo noi, io e il mio partner. Certo. Ma di proposte serie ce ne sono state? In realtà due possono essere considerate per come poste serie. Io non ho risposto neanche subito, perché non è che i soldi sono tutto, fanno una grande parte nella nostra vita, soprattutto sociale. Ma quanto ti hanno offerto, scusa? Fanno raggiungere degli obiettivi. No, l'offerta l'ho fatta io. Sì, ma loro milione, hanno detto un milione. Ma chi è che ti dà? Adesso siamo seri. Al massimo ti daranno 20 euro. Chi è che ti ha dato un milione? Ma 20 euro ti daranno? No, allora io ho letto, perché mi ha mandato degli screenshot. Mi ha mandato degli screenshot. Non è una questione di vendere sesso per soldi, è una cosa che è legittima, però. Cosa che è legittima. Con la mia popolarità ho fatto un annuncio. Ma quale popolarità? Poi tu puoi rispondere o non rispondere, sei libero, ma ci può essere, perché siccome i soldi si stampano e esistono tante persone sulla faccia della terra molto, molto ricche, che possono voler spendere un milione abbastanza facilmente. Poi capiterà o non capiterà, ma la gente che fa questo. Però mi sembra esiste. Che due persone, tu mi hai mandato degli screenshot, due persone, sì. Una con, mi sembra, un arabo, se non sbaglio. Uno è un arabo, sì, con il quale sono in contrattazione, perché anche io mi voglio prendere del tempo per capire questo chi è, se realmente la proposta è seria. Devo prendere dei dati su di lui. Però tu lo faresti se uno ti offre un milione per passare, che ne so, un lockdown, mettiamo che siano due o tre settimane, lo faresti, perché questa è la realtà, ragazzi, lo faresti? Sì, lo farei, perché sono strong, sono focused, sono una ragazza molto ambiziosa e credo che comunque le persone desiderano, vogliono, ma non vogliono dare nulla in cambio, e questa è una grande stronzata, perché per ottenere qualche cosa devi dare qualcosa. Diciamo la verità. La verità, diciamo, Paola. La verità è Paola, scusami un attimo. Paola, scusami un attimo. Allora, se uno ti offre, però diciamo ogni cosa ha un prezzo. Se uno ti offre un milione per stare con te dentro casa tua, rinchiuso per tre settimane, sicuramente ti vuole scopare. Su questo non c'è dubbio. Allora, io ti posso però dare per me, la mia esatto. E dunque tu lo faresti per un milione, lo faresti? Diciamola tutta, lo faresti per un milione? No, aspetta, ma io ti dico sì e ti dico anche perché, essendo io una donna e veramente quando mi sento a mio agio e sto bene, io faccio l'amore anche con chi apparentemente non mi piace. Cioè, io sto nel letto con una persona perché capita, l'altra volta sono stata nel letto con un ragazzo perché il coprifuoco, quindi si è trattenuto a casa mia, non era una persona che mi faceva impazzire all'inizio apparentemente, poi si è comportato bene, sono una donna, il sentimento allora può arrivare molto più lontano del corpo, mi sono sentita libera e ho fatto l'amore con lui perché mi andava ed è stato anche molto bello, aveva anche un bel pistillame di quelli grossi e interessanti. Quindi se io sto bene e mi sento rispettata e amata, puoi farlo anche con qualcuno che non ti piace, che non ti piace particolarmente. Avere un amplesso che magari mi fa anche godere, ma d'altronde cosa c'è di male? Chissà quante signore all'ascolto sono casalinghe e di fatto non lavorano, di fatto scambiando sesso per soldi solo perché sono sposate. Ma allora qual è la differenza? Si può dire che questa è prostituzione, allora quante mamme dei nostri ascoltatori allora possono essere prostitute? No, cioè, ma io sono d'accordissimo con te. Cioè, è io labile, sono... è molto labile. No, diciamo la verità, qual è la qual legge è... del vicolo e della legge dello Stato? Scusami, Paola. Paola, qual è la proposta che non potresti mai rifiutare? Cioè, diciamo la verità, se qualcuno ti offrisse domani una persona, cioè, ti offrisse domani, non dico un milione, però adesso vediamo come va questa trattativa. Se uno ti offre mezzo milione per una scopata, ci stai, diciamo la verità, cioè anche una cifra inferiore, anche una cifra inferiore, dai. Allora, io qual è il minimo? Qual è il minimo che tu dici? Appunto, qual è dai, il minimo? Siamo seri, no. Allora, probabilmente mezzo milione, ma di fronte alla, siccome io sono un abbastanza salutare salutista, di fatto se uno chiede tipo gli arabi lo fanno, il sesso senza preservativo, quello e quell'altro, no, quello no. Il rischio delle malattie non conta, cioè non vale nessuna. Ma 50.000 euro, te la fai una scopata per 50.000 euro? Sì, 50.000 euro li posso alzare facilmente anche io. Onesto, voglio ottenere cifre che da sola in questo momento è un po' più complicato raggiungere. Quindi, siccome io sto valutando delle proposte, ma diciamo la verità: quello d'accordo, quello un milione è il lockdown. Però il lockdown, un milione sarebbe perfetto. Magari ti rompi un po' le palle, però ciao, è un core. lavoro. È una scopata, sì, una notte la Savolino. Qual è il minimo per cui puoi accettare? Diciamo che non lo fai. Però no, se... no, io quello non lo valuto, pertanto non riesco sì, a darti nemmeno 50.000, cifra. Nemmeno 50.000. Ma dai, su. Allora, 50.000 non lo so, guarda Giuseppe, davvero. Ma chi glieli io dà, potrei, ragazzi? Potrei ma di prendere in considerazione se fosse una proposta reale, insomma, però con i dati alla mano. Ma che è per il uomo la signora? Ma figurati, ma di chi stiamo parlando? Ma d'altronde quando sei eccitata, veramente può essere chiunque. Se devi arrivare. Alla fine è molto molto più semplice di quanto ce la vogliamo raccontare. Assolutamente. Ciao Paolina. Ciao, caro. La Zanzara. Oggi c'è stata la prima udienza di questo processo per vilipendio a mio carico che ho voluto io. Ma lei voleva arrestare Mattarella? Noi l'abbiamo arrestato. Noi che non lo volevamo arrestare. Ah. Abbiamo presentato un verbale di arresto. Lo abbiamo consegnato a un colonnello dei carabinieri del Quirinale, che era un ufficiale di polizia giudiziaria. E poteva arrestare noi se Mattarella fosse stato veramente il capo dello Stato. No, ma non è quello, ma non poteva arrestare scusa, voi. Scusa, rimandalo perché mi ero distratto un secondo. Ho paura, credo di non aver sentito. Ho un problema all'udito, che puoi rimandarlo perché non ho forse compreso fino in fondo la stronzata che hai mandato in onda. Fammelo risentire per piacere. Hanno arrestato Mattarella? No, lui, ma lei loro voleva arrestare Mattarella? Noi l'abbiamo arrestato. Come l'abbiamo arrestato? Noi volevamo arrestare. Abbiamo presentato un verbale di arresto. Lo abbiamo consegnato a un colonnello dei carabinieri del Quirinale, e quello che era un ufficiale faccia di polizia giudiziaria. E poteva arrestare noi se Mattarella fosse stato veramente il capo dello Stato. Non si è capito bene, hanno presentato una richiesta così, di arresto, te lo dico io. Quattro squinternati si sono presentati sotto al Quirinale. Ora, sotto al Quirinale vengono spesso molti turisti a fare le foto, no? I corazzieri erano lì davanti, c'erano due carabinieri che uscivano. Dico, voi chi siete? Sono il generale Pappalardo, siamo venuti ad arrestare Mattarella. Questi due carabinieri si sono guardati, si sono fatti consegnare questa lettera, sono rientrati, hanno chiamato un'ambulanza e hanno portato via questi quattro dementi. Così è andata. Non l'hanno arrestato perché l'hanno ricoverato. Questo è quello che è accaduto. Purtroppo. Te lo dico io, per qualche giorno l'hanno trattenuto. Lei capisce che io ho fatto quello che faceva molto più elevatamente Gesù Cristo, che stava in mezzo ai peccatori e non stava in mezzo alle persone per bene come lei, che poi sono ipocrite come lei e prendono in giro le persone. Io vado in mezzo alla gente che posso recuperare per fare manifestazioni moderate. Gesù, io sono come Gesù Cristo. No, ma senti questa nuova teoria di un signore che è stato dei 5 Stelle, che vive a Dubai, che si chiama Andrea Tosatto. Senti. Adesso te la faccio sentire, aspetta un attimo, ecco qua, vai. Ciao a tutti, sono Andrea Tosatto. E se dietro questa cosa del Covid ci fosse la McKinsey, se la piramide fosse rovesciata, se non fossero i governi ad ingaggiare i consulenti dicendo loro cosa vogliono fare, ma se fossero i consulenti che dicono ai governi cosa fare, imbeccati da qualcuno, io nel 2018... Il signor Tosatto, se dietro il Covid ci fosse la McKinsey. Sandro da Firenze, vai. Dimmi. Guarda, ero tristissimo, ma mi hai fatto morire. Io dico sempre, 1000 Saulino, 100 F-Balle, anche tanto Pappalardo, perché io non ho mai sentito niente del genere. Perché erano veramente esatto. E invece sono molto meno pericolosi di Martani e di quel Bacco. Non me lo fare più sentire, per favore. Guarda, io ho perso un amico di 63, io ho 10 anni più di Beppe e 20 più di Parenzo. Sì. Ho perso un amico della mia età, che l'unico fattore di rischio che aveva era di essere come me, come Gottardo, sovrappeso. Quindi non ci scherzate, ragazzi, perché è pericoloso. Nessuno scherza, non lo sminuire, perché guarda, ricordati che l'unica ma nessuno sminuisce niente, che c'è un sacco di gente che però muore di altre cose, primo, e soprattutto c'è un sacco di gente che con tutto chiuso muore lo stesso, perché l'economia si deprime, punto e basta. Giuseppe, dunque bisogna convivere lavorando con sta roba qua. Poi se uno se lo becca, che dobbiamo fare? Non è che non possiamo circolare, e dai, su. Giuseppe, io sono un agente di commercio, lo saprò. Appunto, che vuoi fare? Vuoi restare tumulato a casa? Ma se leggi il mondo, io sono in giro infatti, ma se leggi il mondo, chi sai l'ha risolto? Io leggevo di un ristoratore a Sydney, in Australia, ed è italiano, 35 anni. Signori, qui non c'è più niente, ma sapete quanto è stato chiuso lui? 7 mesi. Certamente ristorato dallo Stato. Anche in Cina non hanno più niente, sono stati chiusi. Io ho avuto una mia, è tornato da 6 mesi completamente blindati. È quello, perché lì lo isoli. Purtroppo bisognerebbe fare quello. Soltanto noi non abbiamo la finanza per far questo, perché non abbiamo i soldi. Perché i tedeschi sono fermati e hanno dato. Io sono un amico che lavora, ha detto, siamo trovati, gli hanno chiuso il bar e tutto. Subito 3.000 euro, non 600, capito? Noi non abbiamo la forza. Ma ho capito, Sandro, hai perfettamente ragione. Ma no, Sandro. Non si può chiudere tutto, dai, su, ma se chiudi tutto è finita, dai, su, ragazzi. Se avessi soldi sarebbe giusto. Ma ho capito, ma se chiudi tutto, la gente creperà di altre cose, basta con questa storia di chiudere tutto. Ci si deve proteggere, purtroppo non ci si può proteggere nemmeno. Ma come fai, cazzo, con la Martani va a vedere quando c'è tempo? Io sono mio gino, sono pieni fino all'orlo, ma quella va a vedere quel Bacco. Ma che dice quel Bacco vuole l'autopsia? Ma le fa la l'autopsia? Bravissimo. Ma che gente è questa? Basta dare la palla a questi qui. Meglio quello che dice Bill Gates, che almeno dice una mischiata si sa. Ma non questo tipo di presidente. Quella alla ruota all'Italia, adesso non va bene i bisogni. Ma che diavolo dice? Poi dice, ragazzi, state blindati. E poi dice, non è pericoloso, si può andare fuori. Allora perché te ne frega di stare blindato? Ti importa una cento nei bisogni? Ma che gente è fuori di testa? Ho detto, meglio 1000 volte la Saulino, chiama il turco. Ciao Sandro, adesso ne chiamo una. Ciao. Emanuele da Roma, vai. Buonasera Cruciani. Dimmi. Aspetta, no, io quello che volevo dire è semplicemente questo, cioè adesso con questa storia io la chiamo la fantopandemia. Ma la gente adesso non è così cogliona da bere tutto quello che la televisione, i media bombardano con questo Covid. Ma i virus ci sono sempre stati. Io sono un negazionista. E dunque questa è una cosa studiata a tavolino. Da chi? E, da chi? Ma, da lei come si informa? Come si informa? Me lo può dire? Dove ha letto queste stronzate? Dove le hai lette? Dove le hai lette queste stronzate? Dove no, dimmi dove le hai lette? Non sai né leggere né scrivere. Dove ti sei? Ma non c'entra niente la sinistra. Dove ti sei informato? Posso sapere dove le hai lette queste cose? Sono molto più informato di te. Dove spiegami una cosa, Emanuele. Tu sostieni che sia una finta pandemia, che dietro che cosa si nasconde? Allora, nel 2012, 2013, 2014, 2013. I morti per influenze, bronchiti, polmoniti sono il triplo di ancora quello del 2020. Cioè le balle non veramente... Ma le palle viene della verità, sai storia, tu. Ancora questa storia. Sì, vabbè, per continuare a prendere per il culo la gente che si caga sotto, che si piscia sotto e si tappa in casa, perché la gente, la maggior parte, sono dei caga sotto dunque, e dei piscia dunque sotto. Dunque, tutto fatto per i vaccini, per vaccinarci, eccetera, per il grande business dei vaccini. C'è dietro un disegno politico, e l'ha capito anche il più stupido che c'è un disegno politico per che cosa? Per terrorizzare la gente, chiuderla dentro casa e poi sicuramente, ma vogliamo parlare del business degli ospedali? Ogni malato Covid quanto prende un ospedale? 2000 più? Credo, 2000, 2000. 2000. Facciamo il conto che entra uno con una broncolite, cioè, tu dici, è tutta una cosa di interessi. Vabbè, ho capito. È tutta una cosa di interessi. Ciao, gli fanno Manuel, un tampone, Allora ragazzi, come sta evolvendo il mondo della dominazione, per esempio? Il mondo delle mistress che fanno la dominazione. A te questo servirebbe, Parenzo, una che ti domina. Ma cioè che ti fa, sì, che ti prende a frustate. C'è già mia moglie io. Che ma ti, no, sì, è vero. No. C'è già mia moglie che ovviamente non ma che beh, domina, dominante, che governa abbastanza la dominante. Casa. Quindi però io non me l'immagino, ho, non ho nessun problema. Tua moglie che a un certo punto ti schiaccia i piedi in bocca. Ma questo ti perché dovrebbe? Tu per terra e tua moglie che ti schiaccia i piedi in bocca. Ma perché dovrebbe? Perché qualcuno piace, dovrebbe. Vero Cristi Dom? A me non piace. Senti, io mi sono rotto i coglioni. Io sono a minoranza piace, in questa trasmissione. No, signora cara, no. Io vi chiedo scusa, ma a me non piace. Avete capito? Porca puttana. Le frustate della moglie non sono buone come quelle della mistress. Scusi Cristi, buonasera innanzitutto. Io vado via da questa trasmissione. Mi interrogo anche, perché mi interrogo su me stesso. Dico, ma forse sono strano io che non mi faccio sculacciare. Sì, ma io infatti ci vado, siccome sei io strano, mi faccio delle domande, sì, se non ti strano, piacciono i piedi perché in faccia non mi faccio tua moglie. Pisciare in faccia, non mi faccio mettere i piedi in faccia, avete capito? Sì, guarda, basta provare. Fanculo. La prima volta, una volta rotto il piatto, trasmissione del cazzo. Scusami Natania, puoi farmi un piacere? Gli metti per favore i piedi in faccia. Mettigli i piedi in faccia, vedrai che gli piacerà. I piedi in faccia, ravviva un attimo questo rapporto. Mettigli un piede, due piedi in faccia, lui stesso per terra così bello. Tu sì, gli metti bravo, piedi bravo. In faccia, come fa Cristi Dom? Cristi Dom, credo che una delle sue le cose che chiedono a Cristi Dom, che è una signora che fa anche la pornoattrice, eccetera, ma soprattutto fa la mistress. Lo possiamo dire che guadagni di più con la mistress che facendo la pornoattrice? Non parliamo di cifre, di niente, però si guadagna di più facendo queste cose. Ahimè sì, si guadagna di più a metterlo nel culo che a prenderlo. Non c'è dubbio, anche perché tu fai tranquillamente il tuo mestiere di pornoattrice, anali, doppia anali, eccetera, eccetera. Vabbè, guadagni di più, diciamo, a fare altre cose. Le prestazioni più richieste come dominatrice oggi, nei tempi del lockdown, nei tempi del Covid, quali sono? Domande classiche. Allora, di tendenza sono sempre le stesse. L'uomo vuole essere maltrattato. L'uomo vuole essere è la sua natura. Cosa dite? Che è consapevole e chi non lo è, ma ti assicuro che l'uomo vuole essere maltrattato. L'uomo vuole essere maltrattato, un po' è così, ragazzi. Non voglio sapere chi sei, ma solo quanto posso umiliarti. Questo è il tuo motto, mi sembra di capire, no, cara sì, mistress? Esatto, umiliarti o usarti. Allora, le prestazioni più richieste, io torno là, l'uomo vuole essere maltrattato. Dunque, cosa ti chiedono succede? Di più? Sì, ecco, esatto. Allora, l'umiliazione verbale, ma soprattutto le frustate, proprio il male fisico, e non per ultimo la sodomizzazione, la perché sodomizzazione. Diciamo che l'uomo è una donna mancata. Ma come, quindi... ma come la sodomizzazione? In che modo? Con i strapon? Con strapon o plaganali, perché poi ognuno predilige il suo la ma sua fai forma. Anche sessioni virtuali? Certo, e io lo smartworking lo facevo già da prima del lockdown. Come funziona la sessione virtuale per una mistress? Allora, si stabilisce in base a quello che lo schiavo vuole, può essere soltanto chat, sì, se magari lo schiavo è timido, sì, oppure può essere videochiamata o cam, sì, e in base a quello che si va a fare si ma stabilisce. Tu gli dici di andarsi a comprare un plug che poi se lo mette dentro? No, sì, quello si concorda prima, io gli do gli ordini, lui lo deve indossare, sì, e o in cam o tramite foto deve documentare questa sua penetrazione. E il piercing invece? E il pissing, quello mi piace molto, devo piace dire molto, mi piace, eh? Se mi a riceverlo, se a riceverlo, sì, no, farlo. No, mi piace schizzare gli uomini. Ah, ti piace proprio, ti piace, sì, proprio. Ma è molto richiesto anche quello, cioè anche sì, tu italiani, finita. Aspetta, dai, aspetta, voglio capire quanto è richiesto questa roba qua, cioè quanto è richiesto il pissing, questo è interessante, cioè, È richiesto tantissimo, tant'è che quando non si può farlo, sì, di persona fisicamente, come si suol dire adesso, in presenza, sì, si inviano delle provette con l'urina appena fatta. Se volete io vi posso omaggiare. No, grazie. No, aspetta. No, grazie. E che succede? Come che succede? Fatto? Aspetta, mandi queste boccette di urina e poi c'è la webcam che scatta. Certo, perché anche lì deve documentare e quindi soprattutto deve berla. Ecco, quella è proprio la... Quella è la base di tutto. Quella è la base. Senti, sui piedi invece, sui piedi che succede? Che cos'è che poi in questo periodo qua, non di presenza, che cosa puoi fare con fondamentalmente? Mandi delle cose anche lì? Mandi, che ne so... Tutti i calzini del mondo, a partire da quelli sportivi, quelli che mettono gli anfibi, calzini i nylon sporchi, che mettono i sporchi. Tacchi. Ovviamente sporchi odorosi, più sono sporchi odorosi e più valgono e più si guadagna, come anche le mutandine. E anche lì, quando l'utente, tra virgolette, riceve il pacco anonimo, lui deve documentare appunto in cam o tramite una serie di foto il fatto che li riceve, che li odora, eccetera, eccetera. Odora, e soprattutto che li mette in bocca. Li mette in bocca i calzini sporchi. Tu metteresti in bocca, sì, i calzini sporchi della signora Christy Dom, Parenzo? Li metteresti in bocca? No, io ragazzi, scusate, sono forse antico, altri. Mi diverto in altro modo. Non li metteresti in bocca? Io vi chiedo scusa. No, è una fobia. Però scusami, io i calzini in bocca sporchi. Ma è un problema mio. Io i calzini mio. In bocca sporchi di una persona, sì, con cui sto, li metterei tra le mette. È troppo facile. E quello è facile, è vero. Esatto. Un'ultima cosa, cara Christy Dom, che è questa, e poi chiudiamo questa meravigliosa trasmissione. Questa settimana, per sempre. Arrivederci, chiuso. Via. Allora, in questo momento, tu fai ancora delle cose di persona, sì? Allora, sì, ho diminuito le mie però sessioni. Però chiedi qualche test o no? Assolutamente sì, ho ristretto la cerchia a quelli miei fidati. E fai i test, chiedi... Ogni volta richiedo la documentazione del test, fatto appunto... Sierologico, eccetera. Poi il termoscanner, la sanificazione... Ragazzi, questo, la gente si attrezza o a distanza o facendo queste cose qui, anche le dominatrici. Italiani! Ciao Cristi, italiani! Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ma lei voleva arrestare Mattarella? Noi l'abbiamo arrestato.